Innanzitutto il franco CFA, come si pronuncia in francese, è una moneta che usa 14 paesi dell'Africa dal 1945, dall'epoca della colonizzazione francese. È un problema per le economie africane perché non dà margine alle economie africane di aggiustare questa moneta in base all'andamento dell'economia durante l'anno. È una moneta che è un cambio fisso con l'euro e quindi per le economie tipo quelle dell'Africa, di cui sappiamo che la situazione economica è così flessibile, per cui serve una moneta che può essere aggiustata o meno. Per cui questo sistema monetario non va bene per le economie di questi 14 paesi. Questo è il primo punto. Il secondo punto è che questa moneta viene innanzitutto stampata non in Africa, non dalle banche centrali africane, ma a Clermont-Ferrand-Lyon in Francia. Quindi viene stampata dalla banca centrale francese, di proprietà del tesoro francese. Inoltre gli stati africani che fanno parte di questo sistema monetario devono lasciare il 65% delle loro valute estere alla banca centrale francese, 65% come garanzia, quindi alle economie africane vanno soltanto il 35% delle loro valute estere e questo per me è inaccettabile. Perché gli stati africani devono lasciare il 65%? Capisco che le francesi dicono che è una sorta di garanzia per sostenere la parità tra il franco CFA e l'euro, però è un ragionamento che non tiene, perché così penalizza le economie africane. Non è che se un paese africano esporto per 100 euro e viene pagato in euro 100 euro del 65%, cioè circa 70 euro rimangono alla Francia e solo 30 euro vanno all'Africa, quindi questo penalizza l'Africa, questi 14 paesi ovviamente. Possiamo mettere in relazione il franco centrafricano con il fenomeno del migratorio come è stato fatto nei giorni scorsi? Ma questo è molto semplicistico, perché se noi andiamo a prendere i dati delle nazionalità di questi rifugiati, delle persone che vengono nel nostro paese, in Europa in generale, i migranti provenienti dai paesi che usano il franco CFA sono soltanto il 10%, quindi non possiamo dire che il franco CFA è l'unica causa, diciamo, dell'immigrazione, perché cosa diremo dei paesi tipo la Nigeria oppure l'Eritrea oppure la Somalia che non usano il franco CFA? Il franco CFA è uno, diciamo, dei problemi, ma non è soltanto l'unico problema di impoverimento degli stati africani. Abbiamo il problema, per esempio, dell'eccedenza commerciale che l'Europa ha nei confronti dell'Africa, in particolare l'Italia, che è diventata la seconda potenza commerciale, il secondo investitore in Africa, in molte aree dell'Africa, e spesso l'Italia si lamenta dell'eccedenza commerciale della Germania nei suoi confronti, però non vede la sua eccedenza nei confronti dell'Africa, che è un problema altrettanto importante come quello del franco CFA. Poi c'è l'altro problema che riguarda l'acquisto del debito dei paesi africani che sono stati messi da più di 50 anni sotto programma di aggiustamento strutturale, una sorta di austerity da parte del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale, che non consente agli africani di fare programmazione sulla loro economia, di svilupparsi, perché sono costretti, diciamo, a subire queste politiche di austerità da parte del Fondo Monetario Internazionale, no? Quindi difficilmente fanno investimento. Poi c'è l'altro tema centrale, la questione dello sfruttamento delle risorse dei paesi africani da parte del multinazionale e in questi ultimi decenni anche da parte della Cina. Poi l'altro problema all'immigrazione è la questione dei conflitti. Ci sono tantissimi conflitti in Africa e la maggior parte di questi conflitti vengono alimentati dalle potenze estere. Quindi il discorso che viene portato avanti da Di Battista, Di Maio, in realtà ha del vero, però poi non si riflette molto nel caso della migrazione, della politica italiana, no? Esatto, a del vero, però non è questo, non è questo che non è soltanto questo che sia all'origine, dell'immigrazione. Hanno posto un problema e gli do merito su questo, di aver posto un problema che ci dà anche, forza per noi attivisti che da anni stiamo denunciando la questione del francofranco. Però posta così rischia di essere strumentale, perché entrare a affrontare questo tema, che è un tema complesso, che merita un dibattito più approfondito, che non si risolverà nell'arco di qualche mese, ma serve anni di lotta e di dibattito, perché interessa, tutti. Dire che questo è all'origine dell'immigrazione dei paesi africani è stata posta male, però il tema c'è.